da quel dì che ti incontrai ad amare quel imparai a quei pini agli stesso ora ogni giorno t'aspettava pur amor te l'acquivava s'intendeva i nostri cor oh, ella qui il mio destino la mia gioia tutto scordo un tuo sorriso tutto in te mi dona amor alla vita in queste riso passar te voglio possa ognorare che te lieto un dì lo spero sposo viverò e allor mai più